sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Stragi della follia, entra in una scuola e spara, uccisi 10 studenti vicino a Stoccarda. E in Alabama, negli Stati Uniti, un uomo spara 10 persone prima di uccidersi. L'altolà di Fini, in questa Costituzione nessuno può votare per un altro. Tra poco l'incontro a pranzo con Berlusconi. A caccia di bot contro la crisi e all'asta di questa mattina il rendimento è sotto l'1%. Piazza Affari inizia male, poi rimbalza. Chi ci porterà fuori dalla crisi? Il Financial Times fa 50 nomi e c'è il governatore Mario Draghi. Iraq, Tareq Aziz condannato a 15 anni, a morte due fratelli di Saddam Hussein. Giustiziarono dei commercianti accusandoli di speculare sui prezzi. A 16 anni con il fucile da caccia, ma vietato l'acquisto di sigarette. Ecco le proposte su cui si discute per i ragazzi italiani. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. In apertura dunque di questa edizione, le stragi che abbiamo definito della follia. Un uomo è entrato in una scuola in Germania e ha ucciso almeno 10 studenti. In America, in Alabama, un altro uomo ha terrorizzato due paesini uccidendo anche qui 10 persone. Due stragi della follia, cominciamo dalla Germania con Cristina Carpinelli. Sì, buongiorno. Si sarebbe ucciso, ma la notizia resta ancora da confermare, l'autore della strage nella scuola di Winnenden vicino a Stoccarda. Si tratterebbe di un ex alunno che questa mattina è entrato armato nella scuola uccidendo 10 ragazze. Le vittime hanno tra i 13 e i 17 anni, è ancora incerto il numero dei feriti, sappiamo però che alcuni versano in gravi condizioni. L'uomo, dopo aver compiuto la strage, è fuggito verso il centro della città. La scuola è un istituto che ospita 1000 studenti, è una sorta di scuola superiore. Secondo il medico del pronto soccorso che è intervenuto sul luogo, 8 vittime sono state trovate all'interno dell'istituto, 4 in un'aula e 4 in un'altra, 2 invece sono state uccise all'esterno. Secondo alcuni giornali tedeschi, la famiglia dell'autore della strage possedeva 18 armi regolarmente dichiarate, però non è ancora chiaro se il giovane abbia preso l'arma da quell'arsenale. Ovviamente tutte le scuole della città sono state chiuse e per tutta la mattinata corpi speciali della polizia hanno cercato di braccare l'assassino nella sua fuga. Il ragazzo si è procurato un mezzo di trasporto prendendo in ostaggio un automobilista che ha rilasciato poco dopo, ha forzato un posto di blocco dirigendosi verso Stoccarda e pochi istanti fa la notizia ancora da confermare, appunto, del suicidio dell'autore della strage. È tutto. Grazie Cristina Carpinelli. E come detto, qualcosa di molto simile è accaduto a migliaia di chilometri di distanza negli Stati Uniti, in Alabama. Qua gli investigatori cercano di chiarire che cosa possa avere scatenato la follia dell'uomo che la scorsa notte ha terrorizzato due paesini, ucciso 10 persone, tra cui la madre, e poi si è tolto la vita. Si è tolto la vita nella fabbrica dove era dipendente dopo aver terrorizzato un'intera contea, uccidendo 10 persone, ferendone altrettante e poi suicidandosi. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Alabama, sud degli Stati Uniti, nella notte italiana. L'uomo, Michael McLendon, di 30 anni, armato e apparentemente in preda a un raptus, ha dato prima alle fiamme la casa della madre a Kingston, vicino al confine con la Florida, uccidendo la donna. Poi ha imboccato la statale 52, sparando mentre avanzava. Altre persone sono rimaste quindi uccise, diverse ferite lungo il tragitto a un distributore di benzina e davanti a un negozio. Poi ha sparato altri colpi nei pressi di una fabbrica della cittadina di Geneva, dove ha ferito il capo della polizia della città. Fra le 10 vittime che ha lasciato dietro di sé, molti suoi familiari, fra cui i nonni e due zii e anche un bambino. Restano per ora ignote le ragioni del raptus omicida dell'uomo che alla fine si è tolto la vita. Valentina Furlanetto, GR24, il Sole 24 Ore. E in Italia in primo piano la politica oggi, con un pranzo tra poco annunciato tra il premier Berlusconi e il presidente della Camera Fini, dopo i botta e risposta di ieri, botta e risposta che hanno proseguito anche poco fa in aula alla Camera. Allora andiamo a Montecitorio da Elisabetta Fiorito. Che succede? Elisabetta, che allora, succede? Sì, il clima qui alla Camera non si è raffreddato tra il premier Silvio Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini. Poco prima del pranzo settimanale previsto tra pochi minuti con la Camera a fine seduta, Fini è intervenuto di nuovo nell'aula di sul voto dei deputati, il pretesto è il nuovo voto attraverso le impronte digitali, ma un'occasione più che altro che sembra una replica allo scontro istituzionale di ieri sul voto proposto da Silvio Berlusconi per i soli capi gruppo. Perfini, la Costituzione non prevede il voto per delega, fino a quando la Costituzione è quella vigente nessun deputato può essere delegato a votare per altri e ciascun deputato dovrà votare soltanto per sé. Quando e se la Costituzione sarà cambiata, dice Fini, si vedrà. Sul voto dei capigruppo si è espresso anche il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini, che lancia l'allarme autoritarismo. Voti lui per tutti dall'ufficio, ribatte Franceschini a Berlusconi. Di fronte a queste proposte non si sa se ridere o piangere. Per Franceschini in realtà la bugiardia di Berlusconi nasconde l'incapacità del governo di affrontare la crisi economica malgrado l'ottimismo di facciata. Sentiamo Franceschini. Berlusconi non è ottimista, Berlusconi finge di esserlo, ma non penso che sia un atteggiamento corretto e giusto e onesto, e comunque è diverso da quello di tutti gli altri capi del governo del mondo che non negano l'esistenza della crisi, si impegnano ad affrontarla, lui deve affrontarla con delle misure efficaci, non negarne l'esistenza e dire andate a consumare. La gente che non ha più un euro, come fa ad andare a consumare? Ecco, è appena finita l'aula qui alla Camera, come dicevo ci sarà il faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Camera. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. In tempi di crisi fare i puntati sui risparmi degli italiani. Oggi all'asta dei BOT i rendimenti sono scesi sotto l'1% per la grande domanda naturalmente, e in borsa giornata positiva dopo il netto rimbalzo però di ieri. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Effettivamente abbiamo delle giornate di gloria. Ieri Wall Street ha vissuto finalmente la sua miglior giornata del 2009, una seduta che non vedeva da diversi mesi a questa parte. Non credevamo possibile che per il secondo giorno consecutivo l'Europa potesse mantenere una tendenza positiva. Infatti stamattina la seduta era partita malino, con le inevitabili prese di beneficio e i guadagni dopo i rialzi di ieri, e poi a metà mattinata invece l'Europa ci ha ripensato. Non c'è niente di particolarmente entusiasmante, c'è però un più 0,8% a Parigi, a Francoforte un più 0,9%, Londra, la più prudente, era appena positiva, adesso cede di nuovo lo 0,3%, mentre ancora una volta sorprende Piazza Affari. Stamattina l'S&P MIB, dopo il più 7 di ieri, è arrivata a guadagnare di nuovo 2,5 punti, adesso fa più 1,61%, stanno volando le banche, in particolar modo il Banco Popolare fa più 20%, in attesa appunto di poter accedere agli strumenti del governo per ricapitalizzarsi, cioè i Tremonti Bond. Bene anche Monte dei Paschi, più 9,51, Intesa più 7, Popolare di Milano più 7, quindi nuova giornata di recupero per il settore bancario a Piazza Affari. È tutto. E grazie a Deborah Rosciani. Chi salverà insomma il mondo dalla crisi? Il Financial Times ha provato a pensarci, un'idea ce l'ha, e ha compilato una lista di 50 nomi: politici, governatori delle banche centrali, capi di grandi istituzioni, economisti, ministri dell'economia, banchieri, investitori, industriali, a cui, secondo il giornale, sono affidate le speranze di una ripresa dell'economia mondiale. E c'è un nome italiano, il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. E salutiamo il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buongiorno. Dino, come mai secondo te il Financial Times dà così importanza alla figura di Mario Draghi, che in Italia non viene vissuta invece con altrettanta rilevanza? Ma a mio avviso si deve innanzitutto al ruolo internazionale che ha Mario Draghi, e non solo in funzione del suo attuale incarico come presidente del Financial Stability Forum, ma per l'esperienza internazionale che ha maturato in questi ultimi anni. Questo riconoscimento del Financial Times in realtà si riferisce in particolare al ruolo che Mario Draghi ha avuto come appunto presidente del Financial Stability Forum, che è un organismo ristretto del Fondo Monetario Internazionale, che è incaricato di proporre ai governi possibili ricette e strategie per affrontare la crisi, cosa che Mario Draghi ha fatto con un rapporto che è stato messo a punto lo scorso anno e poi viene aggiornato ogni 2 o 3 mesi, rapporto che è stato, come dire, unanimemente apprezzato a livello internazionale, quindi credo che sia per gran parte per questo. Tu pensi che davvero sia tra chi ci porterà fuori dalla crisi? Ma dunque, Mario Draghi in realtà ha dei numeri ovviamente per contribuire almeno a livello di analisi, perché qua bisogna un attimo distinguere, perché poi ovviamente le scelte strategiche vanno in capo ai governi, i governatori non possono fare altro che, diciamo, nella sua attuale carica, quella di Presidente del Financial Stability Forum, che proporre. Ora che si devono anche riscrivere le regole, tra l'altro, come si dice spesso, forse su questo Draghi potrà spendere anche un po' il suo ruolo. Certo, lui è stato, lo ricordo, direttore generale del Tesoro per oltre 10 anni, ha un profilo decisamente bipartisan, visto che ha poi lavorato per ben 8 ministri di altrettanti governi. Quindi poi, insomma, anche la sua esperienza alla Goldman Sachs, poi appunto dal 2006, dal gennaio, sulla plancia di comando della Banca d'Italia, ha una particolare attenzione ovviamente alla stabilità del sistema bancario. E dunque anche in questa sua particolare funzione di presidente di questo organismo, del forum internazionale, ha proposto e continuerà a farlo anche un nuovo sistema di regole che sostituisca l'assenza di regole che ha determinato l'inizio di questa grave crisi finanziaria. Insomma, un ruolo lo giocherà. Grazie a Dino Pesola, inviato del Sole 24 Ore. Armi da caccia ai sedicenni, ma vietato comprare alcol e sigarette fino alla maggiore età. Sentite un po' su cosa si discute. Due proposte di legge che riguardano gli under 18 italiani e che sono in Parlamento. 16 anni compiuti, un esame di abilitazione alla caccia con tanto di attestato per chi lo supera e l'indicazione di 3 accompagnatori con la licenza da almeno 5 anni. Uno solo di questi potrà portare a caccia il sedicenne, che non potrà disporre di un'arma di sua proprietà, ma potrà soltanto utilizzare quella di chi lo accompagna. È una delle misure contenute nel testo unificato del disegno di legge presentato dal senatore forzista Franco Orsi. L'Unione Europea, con una direttiva, che è quella che regola l'attività venatoria, stabilisce che a 16 anni è consentito l'esercizio dell'attività venatoria. I paesi che consentono la caccia a 16 anni in Europa sono i principali paesi: la Francia, la Svezia, la Germania, la Spagna. A 14 anni è ammessa la caccia negli Stati Uniti, a 12 in Canada. Quindi è una proposta che è totalmente compatibile, anzi coerente, con le indicazioni che vengono fornite all'Unione Europea. A 16 anni si guida una moto che fa 150 all'ora, si può comprare una bottiglia di whisky, comprare le sigarette, si può riconoscere un figlio, ci si può anche sposare. Una misura che vede la netta opposizione di Roberto Della Seta, già presidente di Legambiente, oggi senatore del PD, che dice: a 16 anni non si può guidare la macchina, non si può votare, ma si può prendere il fucile e sparare. E se in Francia è già stata approvata dalla Camera una legge che permetterà di acquistare alcol e sigarette solo a chi ha compiuto 18 anni, in Italia, proprio dai banchi dell'opposizione, arriva la proposta del senatore Ignazio Marino, che prevede il divieto di vendita e di consumo di sigarette ai minorenni. Dobbiamo vederlo non come una proibizione, ma come una protezione per la salute dei più giovani. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Un'ultima ora che arriva da Roma, Anna, leggiamola insieme. Nuovo episodio di violenza sessuale a Prima Valle. Una donna ha denunciato ieri alla polizia di avere subito delle molestie sessuali da parte di un uomo che alle sue grida si è poi allontanato in via della Pineta Sacchetti. Le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico hanno effettuato subito una battuta sul posto e rintracciato il responsabile, un 43enne. E un'altra notizia appena battuta dalle agenzie: la polizia romena ha annunciato di aver arrestato 20 persone nell'ambito di un'inchiesta per una maxi truffa cibernetica che ha coinvolto clienti di banche anche italiani. Gli arrestati clonavano i conti bancari dei correntisti attraverso i siti internet delle banche, in questo caso italiane e spagnole. 13, 18 minuti e 30 secondi, le notizie di oggi extra large. Due stragi della follia. Un uomo ha aperto il fuoco in una scuola vicino a Stoccarda, nel sud-ovest della Germania. 10 studenti sono rimasti uccisi. È caccia all'uomo. L'ipotesi è che a sparare sia stato un ex studente. Strage anche negli Stati Uniti, in Alabama, dove gli investigatori cercano di chiarire cosa possa aver scatenato la follia dell'uomo che la scorsa notte ha terrorizzato 2 piccoli centri, uccidendo 10 persone, tra cui madre, nonni e zii. Poi si è tolto la vita. Per la politica, incontro a pranzo oggi tra il premier Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini, dopo il botta e risposta di ieri. Al centro della polemica l'idea lanciata da Berlusconi che in Parlamento a votare siano solo i capigruppo per velocizzare i lavori parlamentari. Fino a quando la Costituzione è quella vigente, nessun deputato può essere delegato a votare per altri, ha ribadito Fini in aula prima di recarsi all'incontro. 50 nomi quelli che porteranno la comunità internazionale fuori dalla crisi, una lunga lista di politici, economisti, banchieri e industriali a cui sono affidate le speranze dell'economia mondiale. La compila il Financial Times, che ha inserito un italiano, il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. In Irlanda del Nord, manifestazioni silenziose di fronte ai municipi delle città. In questi minuti migliaia dimostrano contro il terrorismo. E un appello alla pace è arrivato anche da Papa Benedetto XVI. Esprimo la più ferma condanna per tali esecrabili atti di terrorismo che, oltre a profanare la vita umana, pongono in serio pericolo il processo politico in corso nell'Irlanda del Nord e rischiano di spegnere le tante speranze da esse suscitate nella regione e nel mondo intero. In Iraq l'ex vice premier Tarek Aziz e Ali Hassan, detto Ali Alchimico, sono stati condannati a 15 anni di carcere dal tribunale speciale, condannati a morte due fratellastri di Saddam Hussein. Erano tutti imputati per l'uccisione di diversi commercianti messi a morte nel 1992, accusati di aver speculato sui prezzi. Nuova querelle diplomatica tra Cina e Stati Uniti. Pechino infatti replica a Washington definendo accuse gratuite le preoccupazioni espresse ieri dalla Casa Bianca per il rispetto dei diritti umani in Tibet. Per Pechino, inoltre, queste accuse potrebbero portare a un peggioramento delle relazioni tra i due paesi. Le accuse gratuite che ci sono state rivolte possono peggiorare le relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Ma Zhaoqiu in una nota diffusa oggi. Ieri, in occasione del 50° anniversario della fallita rivolta tibetana che portò all'esilio del Dalai Lama, la Casa Bianca si era detta preoccupata per la situazione dei diritti umani in Tibet. Il viaggio negli Stati Uniti del ministro degli Esteri cinese Yang Jiechi, che comincia oggi, non inizia sotto i migliori auspici. Domenica scorsa si era verificato un incidente al largo dell'isola di Hainan, nel sud della Cina, nel corso del quale una nave americana era stata fronteggiata da alcune imbarcazioni cinesi che la ritenevano responsabile di una violazione delle loro acque territoriali. Un altro probabile argomento all'ordine del giorno, oltre al Tibet, per l'incontro che si svolgerà oggi tra il ministro degli esteri cinese e il segretario di Stato americano Hillary Clinton. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. E della Cina si parla in queste ore però anche sul fronte della crisi economica. La novità arrivano infatti proprio dalla Cina in Asia, che ufficialmente sostiene che la sua crescita non sarà intaccata dalla crisi, ma che invece oggi per la prima volta registra una frenata dell'export. Nuovi segnali di difficoltà da parte delle due principali economie asiatiche. Anche la Cina viene colpita in modo spettacolare dai venti della recessione globale. In febbraio le esportazioni cinesi hanno registrato una pesante contrazione del 25,7%, superiore a ogni previsione. Le importazioni cinesi sono altresì diminuite del 24,1%. Il surplus commerciale di 4,84 miliardi di dollari risulta il più basso da 3 anni. Tuttavia, alcuni dati sull'aumento degli investimenti in infrastrutture ed edilizia urbana segnalano che la manovra di stimolo del governo cinese sta cominciando a produrre effetti sull'economia e induce alcuni analisti a prevedere che il paese si riprenderà prima di altri. Quanto al Giappone, che è già in piena recessione, i prezzi alla produzione sono diminuiti dell'1,1% in febbraio, una tendenza che fa prevedere il prossimo ritorno del problema della deflazione. Inoltre, gli ordini di macchinari sono risultati in diminuzione per il quarto mese consecutivo in gennaio, con una contrazione del 3,2% che segnala la debolezza degli investimenti delle imprese. Oggi comunque le borse asiatiche hanno fatto segnare rialzi quasi generalizzati sull'onda del balzo di Wall Street. La borsa di Tokyo si è risollevata dai minimi da 26 anni, spronata dai titoli bancari. L'indice Nikkei ha chiuso in avanzata del 4,6%, mentre Hong Kong ha terminato un progresso di oltre il 2%, anche se la compagnia aerea Cathay Pacific ha annunciato di aver chiuso il 2008 con la prima perdita da 10 anni, pari a 1,1 miliardi di dollari. La borsa di Shanghai invece ha accusato il colpo ed è scivolata di quasi l'1%. Stefano Carrer, GR24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. E ora parliamo di calcio, perché è andata male alla prima delle tre italiane, come sapete, impegnate nei ritorni di Champions. Parliamo della Juventus, stasera invece tocca Inter e Roma. Forse Spalletti e Mourinho dovrebbero ripassare in queste ore di vigilia lo slogan che ha reso famoso Obama. Yes, we can, ce la possiamo fare. Possiamo scalare l'Everest britannico, fare male ai padroni del calcio europeo che da due anni a questa parte monopolizzano la Champions League e che negli stessi due anni ci hanno preso a pallate. Prima di ieri sera, nelle ultime 9 volte che italiani e inglesi si erano affrontate, i nostri non erano nemmeno mai riusciti a violare la porta avversaria. 9 partite, 0 gol fatti, 10 subiti. E appena prima il Manchester ne aveva addirittura rifilati 7 alla Roma, numeri sufficienti a giustificare un profondo senso di inferiorità. La coraggiosa Juventus, eliminata dal Chelsea, ha quantomeno provocato una crepa in questo muro. E allora Spalletti e Mourinho farebbero bene a telefonare a Ranieri e magari a chiedergli come si fa, pur falcidiati dalle assenze e in 10 uomini, a mettere paura ai leoni inglesi. Consigli utili per la Roma, la cui lista di infortunati è lunga quanto quella dei titolari disponibili, e anche per l'Inter, la cui qualificazione sarebbe un'autentica impresa. Ma la Juventus ha detto che si può lottare senza considerarsi battuti in partenza, che ce la possiamo fare anche noi, insomma, anzi, come direbbe Obama, yes we can. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. E la nazionale di calcio iraniana in questi giorni in Italia, quando business e diplomazia passano anche dallo sport. Qualcuno l'ha già chiamata, magari esagerando, la diplomazia del pallone. Quel che è certo però è che nei giorni dello stallo sul dossier nucleare iraniano e del rinvio della visita del ministro degli esteri Frattini a Teheran, Italia e Iran si incontrano intorno a un campo da calcio. Terminerà infatti giovedì il viaggio di una numerosa delegazione di dirigenti calcistici iraniani in Italia. Una visita a Coverciano, poi vertici con Roma, Lazio e Fiorentina, tavole rotonde sulla gestione dei diritti TV. 96 ore di full immersion nel calcio nostrano per quei dirigenti che guidano le 18 squadre dell'Iranian Pro League, che sognano una Champions League asiatica, ma che guardano anche all'organizzazione calcistica italiana di base come modello per radicare il calcio a Teheran e dintorni. Il presidente della Lega Dilettanti, Carlo Tavecchio. Loro attualmente hanno solo grandi club che fanno dei campionati, vorrebbero creare un mondo di base. Noi siamo molto lusingati che gli interessi sono nei nostri confronti. In Europa siamo, penso, un paese tra i più organizzati sotto questo aspetto. E proprio dalla Lega Dilettanti parte l'esperienza che più incuriosisce i vertici del calcio iraniano. La delegazione iraniana è molto interessata ai progressi che hanno fatto gli studi della Lega Dilettanti in merito ai campi in erba artificiale. In Iran di erba ce n'è poca naturale e quindi sono interessati a fare delle joint venture con aziende italiane. Insomma, per il football a Teheran, se son rose fioriranno. Magari, perché no, sull'erba sintetica made in Italy. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 32 minuti, le notizie di oggi, GR24 Extra Large. Un uomo ha aperto il fuoco in una scuola vicino a Stoccarda, nel sud-ovest della Germania. 10 studenti sono rimasti uccisi e altre 2 persone estranee alla vicenda sono morte nella sparatoria con la polizia, in cui è rimasto ucciso il presunto autore della strage, un ragazzo di 17 anni. Strage anche negli Stati Uniti, in Alabama, dove gli investigatori cercano di chiarire cosa possa aver scatenato la follia dell'uomo che la scorsa notte ha terrorizzato 2 piccoli centri, uccidendo 10 persone, tra cui madre, nonni e zii, e poi si è tolto la vita. Incontro a pranzo oggi tra il premier Berlusconi e il presidente della Camera Gianfranco Fini, dopo il botta e risposta di ieri. Al centro della polemica l'idea lanciata da Berlusconi che in Parlamento a votare siano solo i capi gruppo per velocizzare i lavori parlamentari. Così Fini poco prima dell'incontro. Essendo a tutti noto che fin quando la Costituzione è quella vigente non può essere delegato alcuno a esprimere il voto del parlamentare, perché il parlamentare deve votare unicamente per se stesso, perché questa è la nostra Costituzione. Quando e se domani la Costituzione sarà cambiata, è di tutta evidenza che il Presidente non dirà le cose che è doverosamente tenuto a dire in questa circostanza. E davanti a questa proposta non si sa se ridere o piangere, è stata questa mattina anche il commento del segretario del PD Franceschini, che poi è tornato sulla crisi. Berlusconi non è ottimista, Berlusconi finge di esserlo, ma non penso che sia un atteggiamento corretto e giusto e onesto, e comunque è diverso da quello di tutti gli altri capi del governo del mondo che non negano l'esistenza della crisi, si impegnano ad affrontarla, lui deve affrontarla con delle misure efficaci, non negarne l'esistenza e dire andate a consumare. La gente che non ha più un euro, come fa ad andare a consumare? 50 nomi, quelli che porteranno la comunità internazionale fuori dalla crisi. Una lista lunga di politici, economisti, banchieri e industriali a cui sono affidati le speranze dell'economia mondiale. La compila il quotidiano Financial Times, che ha inserito un unico italiano, il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Manifestazioni silenziose in Irlanda del Nord di fronte ai municipi delle città. Migliaia hanno dimostrato contro il terrorismo e un appello alla pace è arrivato questa mattina anche da Papa Benedetto XVI. Esprimo la più ferma condanna per tali esecrabili atti di terrorismo che, oltre a profanare la vita umana, pongono in serio pericolo il processo politico in corso nell'Irlanda del Nord e rischiano di spegnere le tante speranze da esse suscitate nella regione e nel mondo intero. In Iraq l'ex vice premier Tareq Aziz e Ali Hassan, detto Ali il chimico, sono stati condannati a 15 anni di carcere dal tribunale speciale. Condannati a morte due fratellastri di Saddam Hussein. Scarcerati per lo stupro della Caffarella, i due rumeni restano in carcere per altri reati. Il questore di Roma rilancia: erano lì e lo dimostreremo, ma non sappiamo di chi è il DNA. E in apertura subito un aggiornamento che riguarda la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione, notizia che era anche nei nostri titoli. Sono a questo punto 16 complessivamente in Germania, a Stoccarda, le persone morte oggi vicino a Stoccarda, appunto come conseguenza dell'attacco ad una scuola da parte di un giovane di 17 anni, lo ha reso noto poco fa la polizia. Tra i morti naturalmente c'è anche l'autore della strage, appunto ripetiamo, un ex studente di 17 anni. Vi terremo naturalmente aggiornati se ci saranno altre novità. Parliamo ora invece però d'altro. Come cambia il mercato della pubblicità che, come sappiamo, alimenta giornali, TV, internet, radio, come la nostra anche, comunque tutti i mezzi di comunicazione. Come cambia, insomma, in tempo di crisi? Allora proviamo a capirlo con Alessandra Scaglioni, caporedattore responsabile programmi di Radio 24, che è per noi al Summit sulla comunicazione Tutto cambia, cambiamo tutto, promosso da Utenti Pubblicità Associati. Lupa. Alessandra, buongiorno. Allora, momento difficile, lo diciamo sempre, gli investimenti pubblicitari non fanno eccezione, ma i numeri cosa dicono? Ma dunque, gli investimenti pubblicitari ovviamente non fanno eccezione, perché un mercato in difficoltà è un mercato di cui risente anche la pubblicità. E qui a Roma oggi si sono riuniti i rappresentanti delle aziende che in pubblicità investono e anche i rappresentanti delle diverse associazioni che operano sul mercato pubblicitario, e sono parecchie, e per cercare di analizzare la situazione e, se possibile, prevedere il futuro. Ecco, adesso dico se è possibile, perché la considerazione più diffusa che abbiamo raccolto qui oggi è proprio questa. Gli andamenti del mercato sono talmente altalenanti, a volte contraddittori, che è molto difficile fare previsioni. Tant'è vero che la ricerca che si chiama Il futuro della pubblicità, e che è una ricerca che si fa ogni anno per raccontare l'andamento del settore e le previsioni, non verrà presentata oggi, ma verrà presentata tra un mese circa. Sulla situazione oggi però un dato lo possiamo anticipare. Qui oggi i dati non sono stati moltissimi, dati numerici, ce n'è uno che verrà dato oggi pomeriggio da Enrico Finzi di Astra Demoscopea, e il dato è questo, riguarda la flessione del mercato pubblicitario in generale, che è di circa il 10% rispetto a un anno fa. Con differenze ovviamente sull'andamento degli altri mezzi, alcuni li citavate voi prima, vanno peggio i quotidiani, va un po' meglio la TV, ancora un pochino meglio la radio, ancora meglio internet, ma ci sono situazioni anche molto diverse all'interno dello stesso settore. Alessandra, noi diciamo spesso, insomma, meno 10% non è poco naturalmente, però diciamo spesso che tra le pieghe della crisi economica in generale possiamo trovare anche qualche buona notizia, qualche risistemazione anche di settori economici dove magari si era speculato, dove non si era investito correttamente. Accade anche per il mercato pubblicitario? Accade esattamente questo anche per il mercato pubblicitario. Un'altra delle cose di cui si è parlato più spesso oggi, come vi dicevo, è il cambiamento. Si dice che questa crisi dovrebbe configurarsi appunto anche per il settore della pubblicità come un momento di selezione che possa ripulire il mercato, che possa eliminare rendite di posizione, che possa aprire la strada a un cambiamento, a un diverso modo di comunicare con il consumatore, grazie non solo alle tecnologie ma anche a filosofie diverse In parte ci siamo accorti tutti che i messaggi pubblicitari stanno già cambiando, stanno diventando più realistici, si rifanno a valori generali come l'ecologia, lo sviluppo sostenibile, quindi l'indicatore che da questa crisi possa uscire un settore in qualche modo ripulito e rafforzato c'è. Non dimentichiamoci una cosa, questo settore ha avuto in alcuni momenti una redditività molto alta. Quando si uscirà da questa crisi, questa redditività sarà probabilmente ridimensionata. Grazie ad Alessandra Scaglioni. E di sicuro la pubblicità in Italia, la pubblicità almeno in TV, un cambiamento epocale in qualche modo si appresta a farlo, perché oggi arriva al Senato la legge comunitaria che apre le porte ad un nuovo modo di fare affari, di fare pubblicità in TV, vale a dire gli spot all'interno delle produzioni come i film e le fiction. Non vi aspettate però la sigletta con lo sponsor, perché parliamo di un'altra cosa, cioè dei prodotti che vengono inseriti all'interno. Esatto. Di cosa si tratta? Allora Marta Cagnola lo ha chiesto di spiegarcelo meglio ad Anna Maria Bagnasco, docente di economia dei media al IULM di Milano. Inserimento di brand e di prodotti all'interno di un contenitore, di un contenuto televisivo, con delle eccezioni che vanno dai programmi per i bambini ai programmi di attualità, nel senso che il product placement viene vietato in linea di principio, ma le deroghe sono poi molto ampie, essendo valide sia per i film, sia per le fiction, sia per i programmi di intrattenimento leggero, sia per i programmi sportivi. Perché non ci sia una forma di repulsione da parte del pubblico nei confronti di un inserimento pubblicitario che può essere avvertito come invadente, come eccessivo, occorrerebbe che questi inserimenti venissero fatti in maniera coerente con quello che è il contenuto nel quale viene inserito. Se venisse rispettata la regola della coerenza e del rispetto, quindi per il fruitore dello spettacolo televisivo, potrebbe non solo non cambiare niente, ma addirittura arricchirsi il contenuto, visto e considerato che marche e prodotti sono assolutamente parte della nostra vita. L'altra cosa è che, essendo il product placement accettato in televisione per la maggior parte dei paesi europei a seguito appunto della direttiva della Commissione e negli Stati Uniti da molto tempo, è evidente che noi già siamo abituati, per quanto riguarda per esempio tutto quello che sono i film o i prodotti che comunque vengono importati dall'estero, ad avere product placement televisivo. Vista l'invasione di prodotti stranieri sulle nostre reti, forse non è che sia destinato a cambiare così tanto. Il pubblico è già abituato a fruire product placement. Quindi il product placement entrerà a far parte del conteggio per quanto riguarda i siti pubblicitari? Sì, assolutamente sì, e questo è stabilito già dalla direttiva e quindi bisogna chiaramente adeguarsi. Ovviamente invece il product placement che si trova in un telefilm americano, poniamo, non rientra in questo conteggio, quindi è quasi gratuito? Diciamo di sì, infatti questo è un problema probabilmente, a parte il fatto che, una cosa da dire, molti dei prodotti che noi vediamo non sono poi disponibili in Italia, però invece per molti dei prodotti che ci sono c'è probabilmente un discorso di regolamentazione che andrebbe affrontato. Detto tra noi, però, se venisse approvata questa norma che consente il product placement nel piccolo schermo, da un certo punto di vista si regolarizza un qualcosa che già, diciamocelo di nascosto, avviene. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Infatti questo significa dare chiarezza, questo significa dare trasparenza e quindi da questo punto di vista ben venga che ci sia una regolamentazione a cui far riferimento. Questa era dunque l'intervista ad Anna Maria Bagnasco, docente di economia dei media alla IULM di Milano. Ancora un breve aggiornamento per quanto riguarda la notizia d'apertura, i 16 morti a Stoccarda per l'assalto di questo giovane che con la pistola ha sparato e ucciso diverse persone nello scontro a fuoco con la polizia in cui è rimasto ucciso il giovane, avvenuto in un parcheggio della località di Wedlingen. Sono morti anche due passanti e due agenti sono rimasti tra l'altro gravemente feriti. Ora la pagina è quella della cronaca italiana. Con chi eri tu? Io con questo mio amico. Quella che sentite è la confessione poi ritrattata di Alexandru Itstoica Loios, uno dei due romeni arrestati per lo stufro della Caffarella. Il sonoro è stato estratto da un video in cui Loios appare tranquillo e senza segni di percosse, diffuso dalla Questura di Roma in seguito alla denuncia di presunti maltrattamenti da parte della polizia per ottenere la confessione. Dichiarazione storta, sostiene il legale di Loios, un'accusa a cui la Procura di Roma ha risposto con un ordinario ordinanza di fermo per calunnia. Proprio in forza di questo, il romeno si trova ancora in carcere, nonostante l'annullamento dell'ordine di custodia cautelare deciso ieri dal Tribunale del Riesame di Roma, anche nei confronti dell'altro romeno arrestato. Quest'ultimo non può lasciare ugualmente il carcere perché è accusato di un altro stupro, quello di Primavalle. Al DNA individuato dalla scientifica non corrisponde ancora nessun nome, dicono poco fa, hanno detto poco fa dalla Questura di Roma. Dunque ancora nessuna certezza, invece una certezza viene da Treviso. Pensate, erano tutti molto ricchi, però non gli bastava perché erano riusciti ad ottenere l'esenzione dai ticket sanitari. Sentiamo. Redditi da paperoni eppure esenti dal ticket sanitario. La truffa che è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso riguarda 157 persone che nel 2006 hanno ottenuto l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, ma che ad un attento controllo dei redditi sono risultate tutt'altro che povere. Tutti gli indagati, ora denunciati per truffa e falso ideologico, sono iscritti presso l'URSS di Pieve di Soligo nel Trevigiano. Tra di loro titolari di agenzie immobiliari, professionisti con oltre mezzo milione di euro l'anno di redditi, ricchi collezionisti, proprietari di auto di lusso, investitori esteri che avevano autocertificato di essere disoccupati, pensionati al minimo o titolari di assegno sociale per essere esenti dal ticket. Il danno procurato all'erario sarebbe piuttosto ingente anche perché gli indagati avrebbero eseguito parecchi esami medici specialistici in regime di esenzione. A questi risultati le fiamme gialle sono giunte controllando in maniera sistematica gli elenchi delle persone che nel 2006 si erano sottoposte a prestazioni mediche specialistiche gratuite e poi incrociando i dati con INPS e Agenzia delle Entrate. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Treviso. Oggi l'ex vice premier iracheno Tareq Aziz è stato condannato a 15 anni. Ne parliamo tra poco, prima però un'altra notizia in musica che viene dal mondo arabo. Naruto Il rapper che state ascoltando in sottofondo si fa chiamare Clash, il suo vero nome però è Mohamed Al-Ghamdi. Si è fatto un nome su internet e TV satellitari arabe. La prossima estate lancerà YOL, il primo album di rap arabo nei paesi del Golfo. La TV Al-Arabia lo ha intervistato, lui va un po' in controtendenza da quelle parti, dice che apprezza molto la musica occidentale che da sempre è presente nell'underground saudita perché, dice, soprattutto piace alla gente. 13 e 49 minuti, le notizie di oggi. Stragi della follia in Germania, un 17enne entra in una scuola e spara a 16 le vittime, tra cui il killer vicino a Stoccarda, e in Alabama, negli Stati Uniti, un uomo spara a 10 persone prima di togliersi la vita. L'Altolà di Fini, con questa Costituzione nessuno può votare per un altro, l'incontro a pranzo con Berlusconi. A caccia di bot contro la crisi e all'asta di questa mattina il rendimento è sotto l'1%. A Piazza Affari la giornata inizia male, poi però prosegue il rimbalzo di ieri. Tareq Aziz è condannato a 15 anni, a morte due fratelli di Saddam Hussein. Giustiziarono dei commercianti accusandoli di speculare sui prezzi. E allora cominciamo proprio andando in Iraq. C'è un problema con il servizio che riguarda la condanna a 15 anni all'ex vice premier Tareq Aziz. Sentiamo. Questa volta non ha potuto ringraziare i giudici che lo assolsero 9 giorni fa da un'altra accusa. L'ex vice premier iracheno Tareq Aziz è stato condannato a oggi a 15 anni di carcere perché ritenuto colpevole per la morte di 40 commercianti giustiziati nel 1992. A due fratellastri di Saddam, che all'epoca dei fatti erano uno ministro degli interni e l'altro capo dei servizi di sicurezza, è stata invece inflitta la pena di morte. Proprio questa severa condanna fanno pensare a una volontà politica di lasciare libero il cristiano Aziz. Molti iracheni sono infatti convinti che a fare pressione sul premier al-Maliki per risparmiare la vita all'ex volto buono del deposto regime sarebbe addirittura il presidente USA Barack Obama. Radifat Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato nei giorni scorsi del Darfur, in questi giorni siamo tornati a guardare al Tibet, ma diciamo la verità, molte di queste situazioni senza spunti di cronaca tornano spesso nel silenzio. Quante sono le guerre dimenticate? A ricordarcelo, che non sono poche purtroppo, è Medici Senza Frontiere. eccolo il pianto dimenticato di un bambino malnutrito, dimenticato come la tubercolosi che dilaga in Myanmar o i civili iracheni affamati di aiuti. Emergenze umanitarie ignorate dai mezzi di comunicazione italiani, soffocate da un silenzio pericoloso che Medici Senza Frontiere denuncia con il quinto rapporto sulle crisi dimenticate. Sergio Cecchini, direttore della comunicazione della ONG. C'è stato un costante decremento da parte dei telegiornali monitorati, si è passati nel 2006 dal 10% dello spazio al 6% nel 2008. Il dato è preoccupante anche in vista di gravi crisi di cui non si riesce a parlare, facciamo l'esempio dello Zimbabwe, un paese al collasso, 3 milioni di persone sono fuggite in Sudafrica, ma nonostante c'è un paese di cui non si parla. Lo Zimbabwe, ma anche, per fare un altro esempio, il Sudan. Come spiega Kostas Moskokoritis, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia. Siamo davvero indignati da questa assurda decisione del presidente Bashir di espellere le organizzazioni umanitarie, specialmente per Medici Senza Frontiere. Le due sezioni che sono state espulse lavoravano in due campi, dove si sono ammassati 130.000 persone e dove c'è in corso un'epidemia di meningite. Per cambiare le cose, l'organizzazione ha lanciato la campagna Adotta una crisi, rivolta ai media e alle scuole di giornalismo per trovare i modi e gli spazi per parlare di drammi minacciati dal silenzio. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Incontro a pranzo, vi avevamo annunciato, tra Berlusconi e Fini per discutere dell'ultima proposta del Premier sul voto alla Camera. Cosa stanno mangiando? No, non è questa la domanda, naturalmente. L'incontro è cominciato, allora vogliamo sapere qualcosa da Elisabetta Fiorito. Ma nell'incontro non si sa ancora nulla, sicuramente Berlusconi parlerà subito dopo il pranzo, ma il problema è che precedentemente a questo incontro che sta avendo qui la Camera c'è stata proprio una seduta infuocata a Montecitorio. Il malumore del Popolo della Libertà sul voto con le impronte digitali nasconde forse lo scontro istituzionale tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, no? Il clima non si è raffreddato e poco prima del pranzo settimanale Fini è intervenuto di nuovo nell'aula di Montecitorio, lo ricordiamo. La Costituzione, dice il Presidente della Camera, non prevede il voto per delega e poi ha detto anche che non si torna indietro sul voto con le impronte digitali. Grazie Elisabetta Fiorito, purtroppo siamo in chiusura, se no poi andiamo lungo. Ce lo racconterai nelle prossime edizioni. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. E l'appuntamento con le prossime edizioni di GR 24 è come sempre per le 15. GR24 Extra Large vi aspetta domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.